Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Riflettere sul pensiero economico del Medioevo per individuare le possibili chiavi di lettura utili a comprendere quel che accade oggi, dal tema del bene comune, del mercato, al significato sociale della moneta. È quel che si propone il libro pubblicato da Carocci, scritto da Paolo Evangelisti, dal titolo Il pensiero economico nel Medioevo. Ricchezza, povertà, mercato e moneta. Il volume sarà al centro di un dibattito in programma lunedì 15 maggio a Roma, presso la sede dell'Associazione Bancaria Italiana Palazzo Altieri a Roma, incontro cui parteciperà anche il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini per un intervento sul tema della cultura economica e del diritto. Il professor Evangelisti è in studio con noi questa sera. Benvenuto. Buonasera. Allora, tra i diversi spunti che vengono offerti dal libro, focalizzerei l'attenzione prima di tutto sul tema della moneta, vale a dire dell'idea che percorre buona parte del periodo da lei analizzato della moneta come istituzione, che non appartiene al sovrano ma al popolo. Alla metà del 300, Nicolas Oresme, un accademico al servizio della corona francese, poi nominato vescovo, definì la moneta un bene comune talmente importante da paragonarlo a una donna. Un re che volesse alterare la moneta sostenendo che essa gli appartiene è come, diceva, se volesse entrare in casa di una coppia e prendersi la moglie. Lo stesso diritto che tutela l'inviolabilità di quella donna e di quella casa deve essere fatto valere nei confronti del monarca che pretenda di svalutare la moneta, violandola nel suo valore e nella sua integrità, nella sua sacralità di bene comunitario. In quanto bene della comunità, la moneta è più sovrana del sovrano, vanta un diritto più forte di quello esercitabile dal potere del monarca su di essa. Lo dicono in molti, tra 3 e 500, da Valencia a Tubinga, e tra questi numerosi sono gli intellettuali che vestono il saio francescano. Il valore della moneta e la sua stabilità sono dunque beni comuni da tutelare. Allora, professore Evangelisti, se questo è lo statuto, per così dire, della moneta, gli uomini del Medioevo la vedevano diversamente da noi. In poche parole, nessuna decisione è possibile sulla moneta senza che ne sia partecipe e consapevole la comunità politica in cui la stessa moneta si applica. Certo, coloro che nel Medioevo pensavano alla moneta non la pensavano, direi non la riducevano a un semplice oggetto metallico, a una diremmo oggi indefinita bitcoin in mano a gestori fantasma. Non la pensavano come una neutra misura di valore per scambiare merci, o peggio ad una semplice merce tra le merci, potremmo anche dire. Essa era invece concepita come un medium politico che doveva garantire la convivenza comunitaria, di cui era espressione direi anche identitaria. Lei ha citato giustamente Nicolas Oresme, ma vorrei sottolineare che tra i migliori pensatori che hanno riflettuto a tutto tondo sulla moneta come istituzione vi furono decine di francescani, e questo può apparire magari un paradosso perché lo statuto di povertà scelto dai francescani apparentemente confligge con questa loro attenzione all'economia. Certamente adesso non abbiamo il tempo di sviluppare questo argomento, però vorrei sottolinearlo, e magari per chi vorrà partecipare il 15 ci sarà occasione di riflettere su questo. Nicolas Oresme, citando addirittura la Genesi, definiva la moneta un bene che appartiene, come la libertà, a ciascun uomo e, lo si noti, a ciascuna donna, sin dalle origini del mondo, sin da quando cioè nacquero Adamo ed Eva. Ma vengo al punto centrale della domanda, non dimenticando che io sono uno studioso degli uomini del Medioevo e del loro pensiero, e forse più uno studente diligente degli economisti del XX e del XXI secolo. Ma insomma, l'euro per divenire una vera divisa, cioè una moneta che rappresenta anche l'identità e la forza europea, ha bisogno di, a mio modo di vedere, di più politica europea, di più politica comune, di capacità decidente, cioè di decisioni europee in tempi che corrispondono alla gravità dei problemi. E mi permetterei di aggiungere di capacità decidente che deve poter essere assunta finalmente a maggioranza, non vincolandosi più all'unanimità dei 27. Sì, perché oggi noi abbiamo l'euro, ma non so se possiamo sostenere che la moneta unica appartiene a ciascuno di noi cittadini europei. Che dice il professore? Certo, sicuramente il processo auspicato dai teorici del Medioevo di fare della moneta un bene comune, quasi un bene repubblicano, è un'idea che resta ancora da realizzare. Sicuramente politiche comuni sulla moneta e politiche comuni di sostegno e di argine alle disuguaglianze crescenti sarebbero un segno importante per tutti i cittadini che usano questa divisa. Veniamo ora al tema dell'usura, molto presente nel pensiero economico medievale. Nel libro l'argomento è trattato ampiamente. La condanna dell'usura non coincide con il divieto di prestito a interesse stabilito dal diritto canonico. Non è il presupposto con cui si nega la possibilità di commerciare il denaro calcolandone i costi. Lo si può leggere già nei testi conciliari a partire dal 325 d.C., nel canone 17 del Concilio Niceno, oppure nel canone 3 del Concilio di Calcedonia del V secolo, e lo si può leggere anche nelle raccolte di giurisprudenza e diritto umano vigenti prima e dopo la caduta dell'impero. Nel Concilio Niceno, quello che stabilisce la formula del credo ancora oggi recitato in tutte le chiese cattoliche, i padri conciliari affermano che il diritto di esigere interessi sui prestiti monetari è inibito solo ai presbiteri, agli uomini consacrati. Il Concilio di Calcedonia condanna unicamente il prestito che esige una volta e mezzo il capitale prestato. Siamo nel 451. L'usura si caratterizza nel diritto e nella teologia cristiane medievali non come il divieto di esigere una remunerazione sulle somme di denaro prestate, ma come la condanna di prezzi e di costi praticati oltre il valore deciso dai singoli mercati. Ci si oppone alle modalità di vendita di merci e denaro gestiti da uomini che non godono di buona fama, che le singole comunità reputano, per una serie ben precisa di motivi, inaffidabili. Allora dunque un commento su questo tema dell'usura che ha a che fare con la fiducia, evidentemente. Certo, io intanto mi permetto di rilevare che il contenuto di questa domanda e della precedente, di cui la ringrazio, mettono in evidenza un dato direi inoppugnabile, cioè che nel Medioevo il pensiero cristiano di un millennio non condanna il denaro, il suo uso o la ricerca di un guadagno possibile. Insomma, il denaro non è, come lo definì Le Goff qualche anno fa nel suo ultimo libro, lo sterco del diavolo. È qualcosa di più complesso e sicuramente di molto più importante. Invito tutti non a leggere un libro, magari una fonte difficilmente leggibile per il testo latino che potrebbe risultare incomprensibile, ma la prossima volta che vi trovate di fronte a un quadro che racconta di come Gesù bambino riceve i doni dai re magi, guardate lo sguardo di Cristo quando riceve quelle monete d'oro, che valuta e non rifiuta, anzi accoglie con il conforto della Vergine. Questo mi pare un'immagine tanto potente quanto chiara di come il Medioevo, e non solo, perché questo lo potete vedere anche in quadri molto più recenti, considera appunto il denaro e la possibilità, ripeto, la possibilità di usarlo. Cioè, in sostanza non c'è una condanna a priori dello strumento. No, assolutamente, non c'è una condanna che né in età patristica, diciamo quindi molto antica, né venendo a tempi più recenti verso la fine del Medioevo. Direi che dobbiamo invece sottolineare questo, è un tema che viene trattato abbastanza nel mio libro, cioè che l'usura continua a essere, traducendo questa usura come divieto di prestito ad interesse, uno stereotipo di cui molti economisti si servono per continuare a dare per scontata l'inesistenza di un pensiero economico nel Medioevo che invece c'è ed è molto molto molto solido. Direi che appunto il divieto di praticare l'usura non fu né un blocco alla crescita della riflessione economica e nemmeno un blocco allo sviluppo del mercato finanziario. E vi offro solo due dati velocemente. Un francescano di fine 200 scrive un intero trattato sui contratti e si dilunga molto analizzando l'utilità degli scambi, della necessaria circolazione del denaro, teorizza per la prima volta il valore d'uso di un bene, separa il tempo fisico che appartiene solo a Dio, dice lui, dal tempo che appartiene a ciascun uomo che ne può disporre economicamente e liberamente. Un secondo dato per passare, diciamo così, dalla grammatica alla pratica, pensate ai banchieri, diciamo, più famosi, agli Strozzi, Medici, Peruzzi, grandi mercanti di Anversa, di Bruges. Mi pare che non abbiano aspettato né Lutero né Calvino per costruire ricchezze finanziarie utilmente investite, circolanti in tutta Europa, per servirsi di strumenti di credito capaci di spostare capitali senza spostare masse monetate, calcolandone i rischi ed i relativi costi. Beh, sì, molto interessante. E direi, oggi come è vista l'usura, professore, brevissimamente? Oggi il problema è come nel Medioevo mettersi d'accordo sul tasso, cioè chi decide qual è il tasso massimo di sopportabilità rispetto poi a quale credito, se il credito al consumo, se il credito per un investimento, se una... quindi questi sono temi in realtà che appunto si ritrovano in un periodo lunghissimo che potremmo cominciare a contare dal secondo, terzo secolo dopo Cristo fino ad oggi. Bene, allora la ringraziamo molto per essere stato con noi, lo ripeto, abbiamo trattato questa sera l'argomento del pensiero economico del Medioevo, traendo spunto da questo interessante volume, appunto scritto dal professor Paolo Evangelisti, dal titolo Il pensiero economico nel Medioevo, ricchezza, povertà, mercato e moneta, pubblicato da Carocci. Grazie ancora, professore. Grazie a lei.